terzo anello, ad alta voce. Il conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Introduzione di Enzo Siciliano. Il conte di Montecristo di Alessandro Dumas, io credo che sia uno dei grandi romanzi non solo dell'Ottocento francese, ma uno dei grandi romanzi della cultura europea. È stato considerato per molto tempo soltanto forse il capolavoro del genere feuilleton, cioè di quel genere di romanzi dove vendette, prigioni, fughe, mirabolanti avventure, bellezze inusitate che si innamorano di sciagurati o sciagurati che si redimono e diventano gran signori della società hanno la meglio. Ma tutto questo armamentario che certamente appartiene a un romanzo come il Conte di Montecristo, per la penna di Dumas, che era una strana persona, geniale, voracissimo, di eventi e magari forse anche di cibo, diventa questo armamentario, diceva, qualcosa di estremamente diverso, ricco e anche inusitato. Aprite il libro e fin dalle prime battute vi trovate catturati da una magia del raccontare che ha scarsissimi riscontri. Qualcuno si adonterà se dico che il Conte di Montecristo ha la travolgente dinamica narrativa che hanno grandi romanzi come Il Rosso e il Nero oppure come Guerra e Pace, oppure anche come Delitto e Castigo. E però, io lo voglio dire, il Conte di Montecristo è veramente un capolavoro del romanzo occidentale. Cosa racconta? Ne sentirete di tutti i colori. Però, in definitiva, a dirla con pochissime parole, il Conte di Montecristo racconta come un uomo nato ingenuo, che la vita ferisce, rinasce attraverso un tuffo in mare, vedrete perché e come, ascolterete perché e come, rinasce adulto, fortissimo, capace di vendetta, una sorta di santone che fa miracoli, però sono tutti miracoli umani che appartengono appunto all'esistenza di tutti i giorni, creando così una scia di avvenimenti e di fatti che sono l'uno per l'altro indimenticabili. Ma appunto non è soltanto, credetemi, un libro d'avventure, è un libro dove l'esistenza acquista una musica inconfondibile, che è quella della responsabilità che si ha nei confronti degli altri, della responsabilità dell'amore, della responsabilità dell'amicizia e in fondo anche della fedeltà a se stessi e del bisogno di non tradirsi mai. Buon ascolto. Thank you. L'arrivo a Marsiglia. Il 24 febbraio 1815, la vedetta di Notre-Dame de la Garde segnalò l'arrivo dei tre alberi Pharaon, proveniente da Smirne, Trieste e Napoli. Subito, come al solito, la spianata del Fort Saint-Jean si riempì di curiosi, poiché a Marsiglia è sempre un avvenimento di grande interesse l'arrivo di un bastimento, soprattutto quando, come nel caso del Pharaon, si sapeva costruito, arredato e stivato nei cantieri della vecchia Fossé ed era di proprietà di un armatore della città. Intanto il bastimento avanzava e aveva felicemente superato lo stretto, ma così lentamente e con un'andatura così triste che i curiosi, con quell'istinto che presagisce sempre le disgrazie, si domandavano cosa fosse accaduto a bordo. La vaga inquietudine serpeggiante tra la folla aveva particolarmente colpito uno degli spettatori presenti nella spianata di Saint-Jean, il quale non volle attendere l'entrata del bastimento nel porto, ma saltò su una barchetta e ordinò di remare in direzione del Pharaon, che raggiunse di fronte all'insenatura della Réserve. Un giovane marinaio, vedendo arrivare quell'uomo, lasciò il suo posto a fianco del pilota e con il berretto in mano andò ad appoggiarsi al parapetto del bastimento. Era un giovane dai 18 ai 20 anni, alto, snello, con occhi neri e capelli color dell'ebano. Si scorgeva in tutta la persona quella calma e quella risolutezza che sono proprie degli uomini abituati fin dall'infanzia a lottare contro i pericoli. «Ah, siete voi, Dantès!» gridò l'uomo dalla barca. «Cos'è accaduto? E perché quell'aria di tristezza sulla vostra nave?» «Una grande disgrazia, signor Morrel!» rispose il giovane. «Una grande disgrazia soprattutto per me. All'altezza di Civitavecchia abbiamo perduto il bravo capitano Leclerc.» «E il carico?» domandò con ansia l'armatore. «È arrivato a destinazione, signor Morrel, e sono sicuro che ne sarete soddisfatto.» «Ma il povero capitano Leclerc, cosa gli è accaduto?» domandò l'armatore notevolmente sollevato. «Cos'è accaduto al bravo capitano?» «È morto.» «Caduto in mare?» «No, signore, è morto di febbre cerebrale fra orribili patimenti.» Poi, rivolto ai suoi uomini, il giovane gridò: «Olae! Ciascuno al suo posto per l'ancoraggio!» L'equipaggio obbedì. Immediatamente gli 8 o 10 marinai che lo componevano si lanciarono, chi alle scotte, chi alle marre, chi sulle drizze, chi sul caricabasso del trinchetto, chi, infine, agli imbrogli delle vele. Il giovane marinaio lanciò una rapida occhiata all'inizio della manovra e, vedendo che i suoi ordini venivano eseguiti, si rivolse di nuovo al suo interlocutore. «Allora, com'è accaduta questa disgrazia?» continuò l'armatore, riprendendo la conversazione dal punto in cui il giovane marinaio l'aveva interrotta. «Mio Dio, signore, in modo del tutto imprevisto. Dopo un lungo colloquio con il comandante del porto, il capitano Leclerc lasciò Napoli molto agitato e nel giro di 24 ore venne colto dalla febbre e 3 giorni dopo era morto.» «Peccato. Che volete, Edmond?» riprese l'armatore, che sembrava consolarsi sempre più. «Siamo tutti mortali, e bisogna pure che i vecchi cedano il posto ai giovani, altrimenti non esisterebbe il progresso. E dal momento che voi mi assicurate che il carico è in buono stato, signor Morrel, ve lo garantisco. È un carico che vi consiglio di non cedere per meno di 25.000 franchi di guadagno.» Poi, appena oltrepassata la torre rotonda: «Attenzione a caricare le vele dei pennoni, il fiocco e la randa!» comandò il giovane marinaio. «Fate attenzione!» L'ordine venne eseguito quasi con la stessa rapidità che su un bastimento da guerra. «Ammainare e caricare dappertutto!» All'ultimo comando tutte le vele vennero abbassate e la nave avanzò in modo quasi impercettibile, muovendosi solo per inerzia. «E ora, se volete salire, signor Morrel», disse Dantès, vedendo l'impazienza dell'armatore, «ecco qui il vostro contabile, il signor Danglars, che esce dalla sua cabina. Vi fornirà tutti i chiarimenti che desiderate. Io devo sorvegliare l'ancoraggio e parare la nave a lutto.» L'armatore non se lo fece ripetere 2 volte. afferrò una gomena che gli aveva gettato Dantes e con un'abilità che avrebbe fatto onore a un uomo di mare salì gli scalini inchiodati sul fianco sporgente del bastimento, mentre il giovane, tornando al suo posto di secondo, cedeva la parola a colui che aveva annunciato con il nome di Danglar e che, uscito dalla sua cabina, si stava avvicinando all'armatore. Il nuovo venuto era un uomo di 25-26 anni, di aspetto molto cupo, ossequioso verso i superiori e insolente con i sottoposti, per cui, oltre che per il suo ruolo di contabile di per sé motivo di avversione per i marinai, era tanto mal visto dall'equipaggio quanto, al contrario, Edmond Dantès era amato. «Ebbene, signor Morrel», chiese Danglars, «siete già al corrente della disgrazia, vero?» «Sì, sì, povero capitano Leclerc. Era un uomo bravo e onesto, e soprattutto un eccellente marinaio, invecchiato fra cielo e acqua, come si conviene a un uomo incaricato degli affari di una casa così importante come la Morrella e figlio», rispose Danglars. «Ma», osservò l'armatore seguendo con gli occhi Dantès, che cercava il punto adatto per l'ancoraggio, «mi sembra che non occorra essere un vecchio marinaio come dite voi, Danglars, per conoscere bene il mestiere. Eccola! Il nostro amico Edmond, che fa bene il suo, e mi sembra un uomo che non ha bisogno di chiedere consigli a nessuno». «Sì», disse Danglars, gettando su Dantès un'occhiata obliqua in cui balenò un lampo d'odio. «Sì, sì, è giovane e perciò non teme nulla. Non appena il capitano è morto, ha preso il comando senza consultare nessuno e ci ha fatto perdere un giorno e mezzo all'isola d'Elba, invece di tornare direttamente a Marsiglia. Quanto a prendere il comando della nave, disse l'armatore, era suo dovere farlo, come secondo, e invece a perdere un giorno e mezzo all'isola d'Elba ha fatto male, a meno che la nave non avesse qualche avaria da riparare. La nave stava bene, come sto bene io e come desidero che siate sempre voi, signor Morrel, e questa giornata e mezza è stata persa per un capriccio, per il solo piacere di scendere a terra. Ecco tutto». «Dantès», disse l'armatore rivolto al giovane, «venite qui». «Scusate, signore», rispose Dantès, «sarò da voi fra un istante». Poi, rivolto all'equipaggio, «calate l'ancora!» gridò. Subito l'ancora cadde e la catena scivolò rumorosamente. «Abbassate la fiamma a mezz'albero, la bandiera a mezz'asta, incrociate i pennoni!» «Vedete», disse Danglars, «si crede già capitano, parola mia». «E lo è, infatti», rispose l'armatore. «È giovane, lo so, ma mi sembra in gamba e molto esperto nel suo mestiere». Un'ombra passò sulla fronte di Danglars. «Scusate, signor Morrel», disse Dantès avvicinandosi, Ora che la nave è ancorata, eccomi a voi. Mi avete chiamato, vero? Volevo domandarvi perché vi siete fermato all'isola d'Elba. Non lo so nemmeno io, signore. Ho eseguito l'ultimo ordine del capitano Leclerc, che in punto di morte mi affidò un plico per il gran maresciallo Bertrand. L'avete dunque visto, Edmond? Chi? Il gran maresciallo? Sì? Morrel si guardò intorno e tirò in disparte Dantès. E come sta l'imperatore? Domandò con interesse. Bene, da quanto ho potuto giudicare con i miei occhi. Avete visto anche l'imperatore? È entrato dal maresciallo mentre ero da lui. E gli avete parlato? A dire il vero, è stato lui a parlarmi, rispose Dantès, sorridendo. E che cosa vi ha detto? Mi ha fatto delle domande sulla nave, sulla data della partenza da Marsiglia, sulla rotta che avevo seguito e sul carico che portava. Credo che, se fosse stata vuota e io ne fossi stato il proprietario, la sua intenzione sarebbe stata di acquistarla. Ma gli ho spiegato che io non ero che un semplice secondo e che il bastimento appartiene alla casa Morrel e figlio. Ah, mi ha risposto, la conosco. I Morrel sono armatori da generazioni. E ho conosciuto un Morrel che serviva nel mio stesso reggimento quando ero di guarnigione a Valence. È vero, è vero, esclamò l'armatore tutto contento. Era Policar Morrel, mio zio, che poi divenne capitano. Dantès, voi direte a mio zio che l'imperatore si è ricordato di lui e lo vedrete piangere. Il vecchio brontolone. Andiamo, andiamo, continuò l'armatore battendo amichevolmente la mano sulla spalla del giovane. Avete fatto bene a eseguire le istruzioni del capitano Leclerc e a fermarvi all'isola d'Elba, benché se si venisse a sapere che avete consegnato un plico al maresciallo e parlato con l'imperatore, ciò potrebbe compromettervi. Come volete che mi comprometta? Replicò Dantès. Io non so nemmeno che cosa ho consegnato e l'imperatore mi ha fatto le stesse domande che avrebbe rivolto al primo venuto. Ma scusate, riprese Dantès, ecco i funzionari della sanità e della dogana che ci raggiungono. Voi permettete, vero? Fate, fate pure, mio caro Dantès. Mentre il giovane si allontanava, Danglars si avvicinò. «Ebbene?» chiese. «Ha fornito buone ragioni sulla sua sosta a Portoferraio?» «Eccellenti, mio caro Danglars!» «Ah, tanto meglio!» rispose costui. «Perché è sempre spiacevole vedere che un collega non fa il proprio dovere.» «Dantès ha fatto il suo», osservò l'armatore. «E non c'è nulla da aggiungere. È stato il capitano Leclerc a ordinargli quella sosta.» «A proposito del capitano Leclerc, non vi ha consegnato una sua lettera?» «Chi?» «Dantès. A me? No? Ne aveva per caso una?» «Credevo che oltre al plico il capitano Leclerc gli avesse affidato una lettera.» «Di quale plico parlate?» «Di quello che Dantès ha consegnato passando da Portoferraio.» «E come sapete che aveva un plico per Portoferraio?» Danglars arrossì. «Passavo davanti alla porta del capitano, che era socchiusa, e ho visto affidare a Dantès il plico e la lettera.» «No, non me ne ha parlato», disse l'armatore. «Ma se ha questa lettera me la consegnerà.» Danglars rifletté un istante. «Allora, signor Morrel», disse, «vi prego di non parlarne a Dantès. Mi sarò sbagliato.» In quel momento il giovane fece ritorno. Danglars si allontanò. «Ebbene, mio caro Dantès, siete libero?» domandò l'armatore. «Potete venire a pranzo con noi.» «Scusatemi, signor Morrel, scusatemi, vi prego, ma la prima visita la devo a mio padre. Però vi sono riconoscente dell'onore che mi fate.» «È giusto, Dantès, è giusto. So che siete un bravo figlio. E», domandò Dantès con una certa esitazione, «sta bene, mio padre, che voi sappiate?» «Credo di sì, mio caro Edmond, benché non l'abbia visto.» Dantès sorrise. «Mio padre è orgoglioso, signore, e anche se fosse rimasto sprovvisto di tutto, non si sarebbe rivolto a nessuno, eccetto a Dio. Allora, dopo questa prima visita, contiamo su di voi. Scusatemi di nuovo, signor Morrel, ma dopo questa prima visita ne farò un'altra che non mi sta meno a cuore.» «Ah, è vero, Dantès. Dimenticavo che dai catalani c'è qualcuno che deve aspettarvi con non minore impazienza di vostro padre. È la bella Mercedes.» Dantès arrossì. Continuò l'armatore. «Adesso capisco perché è venuta tre volte a domandare notizie del faraon. Andiamo, andiamo, mio caro Edmond, non voglio trattenervi oltre. Avete fatto bene i miei affari, io devo lasciarvi il comodo di fare i vostri. Avete bisogno di denaro?» «No, no, signore, ho tutti i miei salari del viaggio, cioè quasi tre mesi di paga.» «Siete un giovane previdente, Edmond. Considerate che ho un padre povero, signor Morrel.» «Sì, sì, so bene che siete un bravo figliolo. Andate dunque a fare visita a vostro padre. Su, anche io ho un figlio e non saprei perdonare chi, dopo tre mesi di viaggio, lo trattenesse lontano da me. Dunque, mi permettete?» disse il giovane salutando. «Sì, se non avete nient'altro da dirmi.» «No?» «Il capitano Leclerc non vi ha dato, morendo, una lettera per me?» «Non gli sarebbe stato possibile scrivere. Ma ciò mi ricorda che avrei da chiedervi un congedo di qualche giorno. Per sposarvi, prima di tutto, poi per andare a Parigi.» «Bene, bene, prendetevi il tempo che volete, Dantès. Ci vorranno almeno 6 settimane per scaricare il bastimento. E non ci rimetteremo in mare prima di 3 mesi. Dovrete trovarvi qui fra 3 mesi. Il faraon», continuò l'armatore battendo sulla spalla del giovane marinaio, «non potrebbe ripartire senza il suo capitano.» «Senza il suo capitano!» esclamò Dantès con occhi sfavillanti di gioia. «Considerate bene ciò che dite, signore, poiché voi rispondete alle più segrete speranze del mio cuore. Avreste intenzione di nominarmi capitano del faraon?» «Se fossi solo vi tenderei la mano, mio caro Dantès, e vi direi: è fatta. Ma ho un socio, e voi conoscete l'antico proverbio italiano: chi ha un compagno ha un padrone. Ma la faccenda per metà è sistemata, poiché di 2 voti voi ne avete già uno. Fidatevi di me. Per avere l'altro farò del mio meglio.» «Ah, signor Morrel!» esclamò il giovane marinaio stringendo le mani dell'armatore con le lacrime agli occhi. «Signor Morrel, vi ringrazio in nome di mio padre e di Mercedes.» «Va bene, Edmond. C'è un Dio in cielo per la brava gente.» «Ah,